Perfetto Notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Sa cosa disse Michelangelo quando gli fu chiesto: ma come hai fatto a fare questo straordinario capolavoro? Michelangelo, che era un po' strano come tutti i fiorentini, rispose: è stato facile, è bastato togliere il marmo in eccesso. È la stessa cosa che noi stiamo facendo con le riforme in Italia. Avete capito, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, Renzi un po' scultore, ecco, secondo questa sua citazione che ha ripetuto poi nel tempo diverse volte, questa volta con Angela Merkel, approfittando di questo vertice bilaterale che c'era proprio a Firenze, quindi sotto il Davide hanno tenuto poi la conferenza stampa. Parleremo di questo con chi ha seguito la giornata, ma parleremo anche di molte altre notizie, anche questo venerdì, di giorno di fine settimana, è ricco di fatti, ci sono vari processi, alcuni con sentenze, altri in attesa, per esempio sul caso di Lucia Annibali, vi ricordate, la donna simbolo che è stata sfregiata dall'ex, e si attende forse probabilmente per stasera la sentenza. Vediamo se riusciamo entro effetto notte magari anche a sentire lei stessa o il suo avvocato, e poi faremo un punto sulla settimana politica con tutte le cose che sono successe. Abbiamo avuto diversi ospiti anche politici in queste sere effetto notte, vediamo un po' a che punto siamo e cosa ci aspetta per la prossima settimana. Poi parleremo anche un po' di Sanremo, bisogna essere anche un pochino leggeri, un po' pop per questa sera. Vi ricordo, tra l'altro, a parte i due soliti canali vostri privilegiati per interagire qui con Effetto Notte, che è il numero per i messaggi, i sms, che è il 349-238-6666, e poi la pagina Facebook di Effetto Notte, che è sempre lì per aderire, per commentare, per fare quello che volete. E vi ricordo che potrebbe essere lo spunto di questa sera, siccome si continuano a fare i nomi dei possibili candidati al Quirinale e la partita si fa sempre più bollente, questa volta dite quale nome non vorreste assolutamente vedere al Quirinale fra quelli che sentite in questi giorni. Facciamo al contrario questo sondaggio, sia sulla pagina Facebook che al 349-238-6666. Quale nome proprio non vorreste mai vedere sul colle? Intanto vi racconto la giornata. Il vertice Italia-Germania, sintonia tra Renzi e Merkel a Firenze. Il premier italiano dice: bene la BCE, ma dobbiamo mettere il turbo. E la cancelliera tedesca annuncia imprese germaniche pronte ad assumere in Italia. La corsa verso il Quirinale, asse tra Vendola e Civati per un candidato fuori dal patto del Nazareno. Martedì Renzi vede i partiti, poi i grandi elettori. Il voto di domenica in Grecia. Tsipras chiede una maggioranza assoluta e ribadisce: con l'Unione Europea non rispetteremo gli accordi precedenti. Arabia Saudita, morto Re Abdullah, i leader del mondo a Riyadh per i funerali dello storico alleato degli Stati Uniti. L'avvocata sfregiata con l'acido, forse in serata la sentenza di appello. Green Hill, condannati i responsabili dell'allevamento di cani per la sperimentazione scientifica. E per lo sport ci sono state soddisfazioni per l'Italia nel tennis e nello sci. Partiamo quindi da questo vertice bilaterale che c'è stato a Firenze, vertice italo-tedesco, un incontro, un summit all'insegna della piena sintonia tra i due leader, Renzi e Merkel. Renzi, commentando la mossa di ieri della Banca Centrale Europea e a proposito dell'Italia, ha detto: dobbiamo mettere il turbo alle riforme. La cancelliera tedesca dal canto suo ha annunciato che le imprese tedesche sono ora pronte ad assumere in Italia. Poi però ci facciamo raccontare direttamente da chi ha seguito la giornata, per l'appunto. E dopo l'operazione di ieri, il cosiddetto quantitative easing della BCE, restano positive ma caute le borse europee, con Piazza Affari che ha chiuso in rialzo con un più 0,24%. E delle novità annunciate da Draghi oggi ha parlato anche il governatore di Banca Italia Visco. Dopo l'annuncio di Draghi, che ha varato il maxi piano da oltre 1.000 miliardi sui mercati, vincono i segni più e le borse viaggiano in positivo ma senza scosse. Gli effetti principali sono sulla moneta unica: l'euro aggiorna i minimi dal 2003. I mercati sembrano aver apprezzato inizialmente l'importo monstro, che non era atteso, ma i punti nodali sono sui rischi, come confermano anche le parole del numero uno di Banca Italia, Ignazio Visco. Dovremo alla fine condividere i rischi nell'area euro perché siamo un'unione, ma non ancora di bilancio, ha riconosciuto da Davos Visco, sicuro che il quantitative easing funzionerà nella pratica e che sia possibile che la BCE acquisti anche titoli greci. Il QE ha una conclusione aperta, afferma sostenendo che gli obiettivi di inflazione europea sono lontani, ma da Berlino arriva una frenata. Il presidente della Bundesbank, Weidmann, critica la rischiosità del piano BCE, il timore che non si facciano solide politiche fiscali. Comunque, dice, l'obiettivo è di garantire la stabilità a medio termine. Se la Grecia rifiuta il programma non farà parte del QE, gli fa eco il ministro dell'economia tedesco Schäuble, precisando che ha bisogno di riforme strutturali. Anna Marino, Radio 24, Sole 24 Ore. E ora il voto in Grecia. Dopo il trionfale comizio di ieri ad Atene, il leader di Syriza Tsipras, in vista del voto di domenica, ha detto: non vedrò la Merkel subito dopo una mia eventuale vittoria, è abbastanza sicuro insomma di questa vittoria, ha confermato la lotta contro l'austerità. Non rispetteremo gli accordi presi dai predecessori, ha ribadito, che il leader comunque sembra fare meno paura all'Europa, e sentiamo perché. Finisce a colpi bassi la campagna elettorale greca. Il premier uscente Samaras evoca la Corea del Nord, rinfacciando al giovane Tsipras di allontanare gli investimenti dal paese. Il leader di Syriza, forte dei sondaggi, punta il dito contro il premier e la sua nuova democrazia, definita una formazione di destra che ripete slogan della giunta dei colonnelli. Prevedibile l'inasprimento dei toni, visto che il 10% dei votanti dichiara di essere ancora indeciso. Una fetta consistente che potrebbe regalare a Syriza la vittoria assoluta, visto che il sistema greco è un proporzionale con premio di maggioranza al primo partito. A un passo dalle elezioni e preso atto che la sinistra radicale ha molti assi nella manica, anche l'Europa sembra guardare alla Grecia e a Tsipras con meno timore. Il paese ha compiuto passi in avanti, ha seguito lo schema della Troica, ha colmato le voragini nei conti. Certo, il debito resta altissimo, oltre il 170% del PIL, la disoccupazione è a doppia cifra, le emergenze sociali sono infinite, a cominciare dalla scarsità di medicinali, fatti di cui anche a Bruxelles devono tenere conto. Ecco perché, se Tsipras andrà al governo, potrebbe spuntarla almeno sull'allungamento delle scadenze del debito e forse anche su un taglio degli interessi. Nel frattempo, lui festeggia in piazza Omonia come se avesse già vinto, sulle note di Bella Ciao. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E da lì, dalla politica greca, passiamo alla politica italiana. Proprio tra l'altro con le note di Bella Ciao che avete sentito nel comizio di Syriza, si sono aperti oggi a Milano i lavori del convegno di SEL, che chiama la sinistra raccolta sul voto del Quirinale. Matteo Renzi riunisce la segreteria PD per arginare il fronte scissione e la nascita della Cosa Rossa. Il premier riunisce i suoi per ricompattare il partito dopo lo strappo della minoranza sull'Italicum. Il vice segretario Lorenzo Guerini fa appello all'unità del PD per arrivare al nome del Quirinale. Si parte dal Partito Democratico. Dopo le assemblee dei gruppi parlamentari inizieremo martedì con un giro di orizzonte con tutte le forze politiche presenti in Parlamento, con l'obiettivo di arrivare a costruire un'ampia convergenza su un nome condiviso che sia autorevole e che sia in grado di rappresentare gli italiani. Il percorso prevede un incontro di Renzi prima con i deputati, poi con i senatori PD già lunedì mattina, per giungere al nome all'Assemblea dei grandi elettori democratici di giovedì. Una mossa che scardina la nascita della Cosa Rossa, ovvero l'intesa tra Pippo Civati e Nichi Vendola per un nome antipatto del Nazareno, con l'accordo magari anche dei 5 Stelle, così Nichi Vendola. Tutte le forze che considerano il patto del Nazareno una forma di inquinamento permanente della vita politica italiana hanno non solo il diritto ma il dovere di convergere per impedire che questo delitto venga compiuto. Il movimento però non si sbilancia e aspetta il nome di Renzi. Elisabetta Fiorito, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. E vi avviso che stanno arrivando un sacco di messaggi con il nome che non vorreste mai vedere al colle. Ne vedo parecchi e pare che sia primo in classifica uno in particolare. Ma intanto proseguiamo con la cronaca giudiziaria, con diversi processi. Tra l'altro vedo ora in questi istanti dalle agenzie che è stata la sentenza che si attendeva stasera è stata confermata. La Corte d'Appello di Ancona ha confermato la condanna a 20 anni di reclusione per Luca Varani, ritenuto il mandante dell'agguato con l'acido a Lucia Annibali, l'avvocata di Urbino, sfregiata il 16 aprile 2013 da due sicari albanesi, e per Rubin Ago Talaban e Alfistin Precetai, appunto i due sicari. La pena è stata invece ridotta da 14 a 12 anni, mentre appunto è stata confermata a 20 anni per l'ex compagno di Lucia Annibali. Poi cercheremo di raggiungere lei o il suo avvocato, immaginiamo che siano momenti molto concitati questi, però ci proveremo naturalmente durante tutto effetto notte. Le altre questioni legate alla cronaca giudiziaria sono il processo sul naufragio della Costa Concordia, A Grosseto prosegue la requisitoria del PM al processo per quel naufragio. Raffaella Calandra. La confusione degli ultimi momenti, il panico dei passeggeri, la fuga dell'equipaggio, ma pure la commozione davanti all'immagine del corpo senza vita della più piccola delle vittime, Diana, 5 anni. Nel teatro di Grosseto, trasformato in aula di tribunale, va in scena per il secondo giorno la ricostruzione del naufragio della Concordia, ed è proprio qui, secondo la procura, la pistola fumante delle responsabilità del capitano sta nel film di quanto successe la notte tra il 12 e 13 gennaio 2012, perché invece di restare a bordo, scandisce il PM Leo Pizzi, l'ex comandante e i suoi ufficiali decisero di avvantaggiarsi e vanno via da dove sembra più facile scappare, così senza un preciso ordine di abbandono dato più di un'ora dopo l'urto a bordo della grande nave di crociera, la parola d'ordine fu un generale: si salvi chi può, una situazione che già l'ex comandante Schettino aveva paragonato all'otto volante, senza rispetto delle vittime, si infervora il PM, sentiamolo. Schettino ha evidentemente un'idea del panico un po' distante dal senso comune, perché pensa di poter paragonare le grida di disperazione e lui la paragona a un sabato pomeriggio a Gardaland. Le 32 vittime, secondo le ricostruzioni dell'accusa, morirono proprio per le conseguenze di come fu gestita l'emergenza, non per l'impatto. 3 anni dopo il naufragio, così il processo, il primo 2.0 a detta del PM, per la grande quantità di audio e video, volge alle battute finali. Slittano a lunedì però le richieste di condanna per l'unico imputato, Schettino, e potrebbero superare i 20 anni. E per ora è tutto. Grazie Raffaella Calandra. E poi l'altro processo che riguarda Stamina. A Torino potrebbe concludersi con un patteggiamento il processo sul caso Stamina. I difensori di Davide Vannoni, il padre del controverso metodo di cura basato sulle cellule staminali, avrebbero raggiunto un accordo con il procuratore Guariniello, una pena patteggiata ad 1 anno e 10 mesi di carcere per il loro assistito, che in teoria rischia una condanna a 6 anni, in cambio dell'interruzione delle sue attività in Italia e del ritiro del ricorso presentato al TAR contro il Ministero della Salute. Richieste di patteggiamento starebbero arrivando anche dalle altre 13 persone imputate assieme a Vannoni con l'accusa di associazione a delinquere finalizzata alla truffa e somministrazione di farmaci pericolosi. A decidere se accettarle o meno sarà il GUP di Torino martedì prossimo. In caso di sì al patteggiamento, nessun tipo di risarcimento verrà riconosciuto alle parti civili, che potranno ottenerlo soltanto con un nuovo processo in sede civile. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E poi la vicenda di Green Hill, vi ricordate? La prima sezione penale del Tribunale di Brescia ha condannato 3 dei 4 imputati nel processo sull'allevamento di cani Beagle, questi cani destinati a sperimentazione scientifica, chiuso nell'estate del 2012 quell'allevamento. Esultano le associazioni animaliste e ambientaliste, questi cani che sono passati praticamente dalle gabbie alla libertà, 2600 sono stati quelli adottati. Per chiudere lo sport con le soddisfazioni azzurre di oggi tra tennis e sci. L'azzurro è il colore di un venerdì di fine gennaio, azzurro come il cielo sopra le nostre montagne dopo giorni di grigio, azzurro come è pure, normale, quello dell'estate australiana, nella quale Andrea Seppi ha scritto un'impresa al tempo stesso meravigliosa e struggente, cancellando dagli Australian Open un pezzo importantissimo della storia del tennis. Batte il re Roger Federer dopo una partita bellissima e con un punto che finirà negli highlights di uno dei 4 tornei più importanti del pianeta. Federer era già stato battuto da italiani, da Pozzi a Gaudenzi, per finire con Volandre a Roma nel 2007, ma mai in un torneo dello Slam. Per il re assomiglia al crepuscolo, un tramonto lunghissimo. Per Seppi ha un sogno che può continuare, dato che al quarto turno avrà Kyrgios, ragazzino di Canberra, che un giorno potrebbe diventare grande, ma ora è numero 51. A proposito di montagne e di azzurro, Dominic Paris vince il Super G in un posto che è il Maracanã, o se preferite il Wimbledon dello sci, a Kitzbühel, nella stessa settimana in cui Gross ha fatto i numeri in slalom ed Elena Fanchini ha vinto la libera su una gamba sola, quella sana. Ma un giorno come questo è fatto per essere ricordato. Carlo Genta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E a questo punto stavo guardando i vostri messaggi, direi di leggerne qualcuno a proposito del nome di un possibile candidato al Quirinale che non vorreste mai passasse. E comincio a leggere, c'è un ascoltatore che scrive Prodi mai, un altro odiamo Prodi addirittura. Alberto scrive mai e poi mai Amato, assolutamente no Casini. Clotilde dice no Amato, Amato scrive un altro. D'Alema e Casini, Amato no, scrive Carlo da Venezia, Amato ancora un altro ascoltatore. Roberto da Roma scrive: se arriva fino a Chiaro D'Alema, giuro vado via dall'Italia con due attività commerciali in pieno centro Roma e due figli liceali, basta burocrati e sindacalisti. E poi continuerò con il candidato che non vorreste mai al Colle. C'è la pagina Facebook di Effetto Notte, c'è il 349-238-6666 per i messaggi. Adesso aggiorniamo chi sta viaggiando e poi cominciamo a approfondire i temi. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Sta arrivando tantissimi dei vostri messaggi per escludere un nome in particolare dalla corsa al Quirinale. Direi che per il momento sono abbastanza pari merito Giuliano Amato e Romano Prodi. Paolo, Giuliano Amato è quello che ha rubato dai conti correnti di italiani, figurati come presidente. Sebastiano, Amato proprio non lo sopporto, ma cosa avrà mai fatto nelle sue vite precedenti per essere così ben voluto dai politici? E Elena da Firenze: no Prodi, Amato no ultra sessantenni, sì alla Finocchiaro, dice Elena. E un altro: non vorrei mai mortadella, cioè Prodi. E poi cercheremo di fare questa classifica man mano, se riesco a conteggiare in diretta. Però adesso vi ricordo brevemente quali sono state le notizie più importanti della giornata e poi cominciamo da una di queste. Renzi e Merkel, il vertice bilaterale a Firenze, bene la Banca Centrale Europea, dice Renzi, ora bisogna mettere il turbo alle riforme, il piano Draghi da solo non basta e non sia un alibi, e grande sintonia tra i due. Scontro Visco-Weidmann sugli impegni dell'Italia dopo la mossa della Banca Centrale Europea di cui abbiamo parlato ieri. Vendola Civati, si crea l'asse per il Colle, ma il PD dice nessuna divisione, no del Movimento 5 Stelle, a cui era stato chiesto da più parti di partecipare a dei nomi. Renzi vedrà i partiti e poi i grandi elettori del Partito Democratico. La sfida di Tsipras in Grecia, si vota domenica. Non rispetteremo gli accordi dei predecessori, dice il leader della sinistra greca. Ok sugli obblighi della Grecia, dice, ma l'austerità non è nei trattati. È morto Re Abdullah dell'Arabia Saudita, il leader del mondo a Riyadh per i funerali dello storico alleato degli Stati Uniti. Green Hill, condannati i responsabili dell'allevamento. I cani sono liberi a casa, sono stati adottati. E poi l'Italia che vince nello sport, imprese di Seppi e Paris. E soffermiamoci ora sul vertice bilaterale Italia-Germania che c'è stato a Firenze. Vi dicevo, questa sintonia tra i due leader, con Renzi che ha detto bisogna mettere il turbo alle riforme, annuncia che ora tocca alla scuola e l'innovazione, e forte sostegno al Presidente del Consiglio da parte di Angela Merkel. Pare che la simpatia insomma duri da diverso tempo. Dice che è ambizioso, che porterà risultati, annuncia che gli imprenditori tedeschi hanno detto che ora possono assumere in Italia. Così Sergio Nava, quindi c'è stato un grande annuncio, assumeranno in Italia questi imprenditori tedeschi. Sergio Nava oggi ha seguito per noi il vertice bilaterale a Firenze. Buone notizie, sì, quindi Sergio? Sì, ciao Roberta. Diciamo che questo, allora, la Merkel ha riferito quella che è stata un po' la sua sensazione, perché oggi a colazione ha visto l'imprenditore tedesco. È interessante il concetto che ha espresso la Merkel, al di là se questo poi sarà un impegno che effettivamente si tradurrà in fatti concreti o meno. Ha detto, parlando di un imprenditore tedeschi, mi sono resa conto che da parte loro il fatto di avere regole certe, di avere costi calcolabili nel caso di assunzioni poi diciamo andate male, eccetera, mi sono resa conto che la certezza delle regole è quella che per loro conta. Avere regole certe, operare in un ambiente consolidato, riformato, questo va bene. Ecco, quindi il concetto più interessante, al di là di impegni che speriamo ovviamente si tradurranno poi in posti di lavoro, è proprio dato da quello che ha detto la Merkel, la certezza delle regole, che è quella che purtroppo è spesso mancata in Italia, sperando che il Jobs Act effettivamente con i decreti attuativi porti a questa certezza delle regole. Sergio, sentiamo qualche passaggio, anche sentiamo per esempio Renzi a proposito del turbo. L'Italia può e deve mettere il turbo nelle riforme. Noi sappiamo che la rapidità delle riforme in Italia dopo tanti anni di palude è impressionante. In 11 mesi tutti i grandi temi sono stati aggrediti, alcuni già conclusi, altri in via di conclusione. E poi anche sempre sulle riforme ha detto che è praticamente questione di mesi, Renzi. Prima terminiamo il pacchetto di riforme strutturali, prima possiamo dare stabilità complessiva al sistema. Allora, per tutto il 2015 io non guarderò i sondaggi. Per tutto il 2015 noi andremo diritti all'obiettivo. Credo che nell'arco di qualche settimana barra mese la stragrande maggioranza delle riforme sarà completata. E questo Renzi, Sergio, quindi insomma, ha rivendicato il fatto di aver smosso un po' la stagnazione in Italia per quanto riguarda le riforme, no? Anche se sono in corso. Diciamo, Roberta, sicuramente questo è stato il cavallo di battaglia di Renzi, ampiamente condiviso dalla Merkel, però va anche contestualizzato, secondo me. Renzi di fatto ha detto alla Merkel quello che la Merkel voleva e doveva sentirsi dire in qualche modo, perché mi è bastato, esco un attimo dal discorso, ma in realtà si incastra benissimo. Stasera ho guardato il telegiornale del primo canale tedesco, ARD, ed era molto interessante vedere come, parlando del quantitative easing della BCE di ieri, le maggiori preoccupazioni riguardassero proprio i debiti dei paesi come l'Italia, citata esplicitamente, dicendo: bene, se ora compriamo debito italiano, chi ci garantisce che gli italiani poi non faranno altro debito? Allora, Renzi, questo è il telegiornale del primo canale tedesco stasera, quindi Renzi quello che dice è: facciamo le riforme in modo da, diciamo, non incorrere negli stessi problemi, non fare gli stessi debiti, non restare indietro come siamo rimasti gli anni scorsi, e questo è quello che la Merkel voleva assolutamente sentirsi dire, per poi rassicurare la propria opinione interna, che gli italiani stanno facendo i compiti a casa. Grazie Sergio Nava, grazie di questo racconto da Firenze. Sergio, e adesso invece abbiamo finalmente raggiunto, e lo ringrazio, l'avvocato Francesco Coli. Buonasera avvocato. Buonasera a voi. Che è legale di Lucia Annibali ad Ancona. Oggi si è tenuto il processo d'appello, vi dicevo, per l'aggressione all'avvocata Annibali, 38 anni, di Urbino, vi ricordate, che era stata sfregiata con l'acido il 16 aprile 2013 a Pesaro. Imputati sono l'ex compagno Luca Varani, avvocato pure lui, accusato di essere il mandante, e poi Rubin Talabanna e Alistin Precettai, ritenuti esecutore materiale e il Palo in primo grado. Leggevamo poco fa della notizia, avvocato Coli, che è stata confermata la condanna per Varani a 20 anni. Sì, è stata confermata la sua responsabilità penale per tutti i reati che gli sono stati ascritti: tentato omicidio, lesioni gravissime, stalking, violazione di domicilio, per ogni singolo capo d'accusa. Ed è stata confermata la condanna a 20 anni, che sono il massimo della pena possibile nel nostro ordinamento con il rito abbreviato per condotte di questo tipo. E sostanzialmente è stato confermato che quello che lui ha fatto a danni di Lucia è la cosa più grave che sia possibile fare e che merita il massimo della pena. Certo, perché ricordiamo che Lucia ha subito un sacco di interventi chirurgici, ha avuto veramente tantissimo coraggio, è diventata assurda simbolo delle donne che subiscono violenza dagli uomini, dai compagni, ex compagni, no? E lei ha reagito davvero con grandissimo coraggio, con grandissima forza, ed è un esempio per tutte le donne, anche per stare lì a dire: non fate l'errore di pensare che un amore malsano sia un amore, no? Avvocato? Sì, lei ha avuto una forza insospettabile nel reagire a questa, che è una condotta che poi alla fine si concreta in una quotidiana istigazione al suicidio, perché sfregiare una donna, deturparle il volto, rovinarla con l'acido, significa che ogni mattina che si alza, si guarda allo specchio, si domanda per quale motivo non c'è più la sua faccia, non è più la bella ragazza che era prima, e deve combattere con maschere. È qualcosa che io non so dove trovi la forza, Lucia, per combattere. E lei è diventato un simbolo, ha cercato di dare, diciamo così, non dico questo suo insegnamento, ma questa sua testimonianza nel libro che ha pubblicato. Io ci sono, no? Con la giornalista Giusy Fasano del Corriere della Sera. Che diffonde anche nelle scuole, presso gli studenti, sostanzialmente con la propria esperienza, testimoniando quali sono anche i segnali di pericolo che possono esserci in relazioni che sono di non amore, così come è il sottotitolo del suo libro. Ovviamente Lucia è soddisfatta, perché di fronte ad una conferma di quella sentenza che tanto aveva fatto scalpore, non può che riempirsi di soddisfazione. È importante una cosa: rispetto ad una condanna che i difensori degli imputati hanno detto potrebbe essere paragonabile a quella per un omicidio, la Corte d'Appello ha detto che ci sono dei fatti che possono essere anche più gravi dell'omicidio. La tortura che si infligge a una persona privandola del volto, di fatto appunto essendo tortura, può essere anche più grave dell'omicidio. Avvocato, quindi diceva Lucia, per quanto insomma è soddisfatta, leggevo poche parole che dalle agenzie che ha detto i cronisti, ora vado a tutta birra, quindi continua con questo spirito. Era con le amiche, chiaramente, adesso per carità, io conoscendo il processo, il fascicolo, come dire, ero sinceramente convinto che si sarebbe arrivati ad una conferma, però se fosse venuta fuori una sentenza di assoluzione da qualcuno di quei capi di imputazione, in qualche modo sarebbe stata, non voglio dire messa in discussione, ma insomma lesa anche un po' la credibilità di Lucia. Questo non è successo. Avvocato Colli, l'unico imputato e condannato, Varani, ha chiesto scusa, ha mostrato pentimento, che lei sappia, mai, in tribunale? Mai. Nemmeno due righe di un biglietto in cui in qualche modo poteva scusarsi con Lucia. Tutto sommato lui nel processo ha ammesso di aver messo in piedi questo meccanismo secondo quello che dice lui, ma i giudici non gli hanno mai creduto, doveva tutto risolversi con un danneggiamento alla sua automobile e quindi in qualche modo era qualcosa che aveva fatto partire lui. Non ha chiesto scusa nemmeno di questo, non si è mai fatto vivo con Lucia. Cosa resta adesso, avvocato Colli? Ancora la Cassazione? C'è ancora la Cassazione, quindi non è detta l'ultima parola, gli imputati possono ricorrere in Cassazione. In Cassazione però ci si va per violazioni di legge, per motivi specifici di diritto, e il fatto sostanzialmente non viene più messo in discussione. Sicuramente ricorreranno in Cassazione gli imputati e noi siamo, come posso dire, onestamente convinti che anche in quel grado si avrà conferma della sentenza. Ma Varani nel frattempo va in carcere? No, Varani è in carcere già da quella sera, dal 16 di aprile del 2013. Non è uscito e se le cose stanno così non uscirà ancora per parecchio tempo. Avvocato Colli, io la ringrazio moltissimo, ci saluti. Grazie, Lucia. A voi, buonasera, senz'altro, arrivederci. Grazie, buona continuazione. E così siamo riusciti anche a raggiungere l'avvocato Colli, abbiamo sentito la soddisfazione, naturalmente nulla può restituire il viso che aveva a Lucia, la serenità di una volta, però abbiamo sentito davvero, se leggete anche questo libro Io ci sono, scritto appunto con la giornalista Giusy Fasano, vi rendete conto di che forza interiore abbia questa donna, e meno male. Ci possiamo fermare qui, voi intanto continuate a scrivere al 349-238-6666, ringrazio Marco da Vignola, so che il paese delle ciliegie, l'altra volta avevo detto Vignole, ma perché ogni tanto mi sfugge qualche lettera, e poi sulla pagina Facebook di Effetto Notte potete continuare a scrivere qual è il candidato al Quirinale che proprio non volete neanche sentire nominare. A tra poco. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Sono sempre qui con voi, Roberta Giordano, e voi che continuate a mandare i vostri messaggi a proposito del candidato che non vorreste mai salisse al Colle. Finora diciamo che un quasi terza stessa tra Amato e Prodi, forse un po' più avanti Amato. Poi Eleonora dice: non vorrei Rodotà, escogitatore dell'uso del diritto alla privacy contro quello della trasparenza degli atti pubblici. Indovinate, dice, quale piace agli amministratori corrotti. Beh, insomma, non lo vedo proprio così, però questo è il pensiero di Eleonora. Amato no, scrive un altro con tanti punti esclamativi. Prodi mai, scrive Fabio, mai Casini. E poi c'è qualcun altro anche che dice Vittorio Amato, se lo eleggono questo signore vorrei scappare dall'Italia. Vari dicono se eleggono questo vorrei scappare dall'Italia. Intanto però stiamo sulle principali notizie italiane. Il vertice Italia-Germania, non solo italiana naturalmente, sintonia oggi tra Renzi e Merkel a Firenze, il premier italiano dice bene la banca centrale ma dobbiamo mettere il turbo, la cancelliera tedesca annuncia che le imprese della Germania sono pronte ad assumere in Italia. La corsa verso il Quirinale, asse tra Vendola e Civati per un candidato fuori dal patto del Nazareno, martedì Renzi vede i partiti, poi i grandi elettori. Il voto di domenica in Grecia, Tsipras chiede una maggioranza assoluta e ribadisce con l'Unione Europea non rispetteremo gli accordi precedenti. È morto il re Abdullah dell'Arabia Saudita, ci saranno i leader del mondo a Riyadh per i funerali dello storico alleato degli Stati Uniti. L'avvocata sfregiata con l'acido è stata confermata poco fa nel processo d'appello la condanna a 20 anni per l'ex compagno accusato di essere il mandante di questo delitto. Abbiamo parlato poco fa proprio con il legale di Lucia Annibali, abbiamo sentito anche la sua soddisfazione naturalmente. E poi per lo sport, a proposito di soddisfazioni per l'Italia nel tennis e nello sci. Adesso soffermiamoci su questa settimana politicamente assai turbolenta che si sta chiudendo tra legge elettorale, strategie varie, posizionamenti in vista delle votazioni per il Quirinale. Una settimana che potrebbe definirsi precursora della settimana, la prossima, probabilmente molto bollente, dato che da giovedì 29 si dovrebbe cominciare a votare in Parlamento per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica. Le votazioni sull'Italicum, bisogna dire, hanno fatto emergere, ci siamo accorti questi giorni in modo più lampante, in modo più consistente, la spaccatura all'interno del PD tra la minoranza del PD e Renzi in particolare, ma anche i forti malumori in Forza Italia, no? Con la fronda guidata dall'ex ministro Fitto, che ha detto che Berlusconi, inchinandosi in questo modo così arrendevole a Renzi, suicida Forza Italia. E poi c'è stato l'iter, una parte dell'iter delle votazioni, degli emendamenti dell'Italicum, della legge sulla riforma elettorale in Senato, e c'era Gotor in questi giorni, abbiamo avuto in diretta, che capeggiava quei 29 dissidenti, diciamo così, che ritenevano che andasse cancellata questa norma che riguarda il blocco dei capilista. Però è stato superato dal super canguro cosiddetto, questo emendamento invece del parlamentare del PD Esposito, che ne ha cancellati di botto quasi 40.000, gli altri poi si è finito di votarli, e il resto, insomma, però entro aprile si arriverà a una riforma elettorale, ha detto oggi la ministra Boschi, definitiva. Stefano Cappellini, buonasera, bentornato Stefano, caporedattore centrale del Messaggero. Senti, prima di parlare più in dettaglio, a te sconvolge di più che ci siano 47.000 emendamenti per cambiare la legge elettorale, o che un super canguro, un solo emendamento, ne cancelli quasi la totalità in una volta sola? Beh, insomma, è una bella battaglia, però insomma, credo che, dovendo proprio scegliere, credo che sia, diciamo, più difficile da accettare il cosiddetto super canguro, perché comunque una riforma elettorale è un meccanismo complesso che ha bisogno anche di aggiustamenti. È chiaro che 47.000 emendamenti sono, diciamo, una mole ostruzionistica in null'altro, ma non c'è dubbio che tra quelle decine di migliaia forse c'era qualche emendamento che poteva migliorare una legge che è sicuramente frutto di un compromesso, e come tutte le leggi figlie di compromessi ha dei punti molto, molto discutibili, il cui funzionamento sarà da verificare in concreto poi. Stefano, dicevo che c'è stato qui in diretta Gotor una di queste sere, quando ancora appunto si doveva votare il suo emendamento, che poi è stato tra quelli spazzati via dal super canguro, e gli avevo chiesto: ma lei è d'accordo con Renzi, che dice che in realtà la vera partita in questi giorni non si gioca sulla legge elettorale, quella è soltanto un pretesto, la vera partita è sul Quirinale? Questa era stata la sua risposta. È stato Renzi temporalmente a sovrapporre le due vicende, è un dato di fatto, e lo ha fatto perché in questo modo egli ritiene di poter condizionare una serie di personalità che legittimamente aspirano a poter diventare Presidenti della Repubblica. Noi dovremmo, come dire, limitarci nelle nostre irresponsabilità e tenere separati il più possibile le due cose, nonostante questo tentativo di Renzi di tenerle una accanto all'altra, anche nell'ottica di decidere con Verdini e con Berlusconi il prossimo Presidente della Repubblica. E poi l'altro esponente di spicco, diciamo, della minoranza dei dissidenti è Pippo Civati. Sentiamo che cosa, fra le cose che ha detto una di queste sere effetto notte, questo passaggio. Secondo me a livello nazionale si pone un problema banalmente questo: il PD è ancora un partito di centrosinistra, è un partito di centro che guarda da tutte le parti, è un partito con il segretario che ha detto alla linea tutti gli altri devono dire di sì? Queste sono le domande di questi giorni. Se le risolviamo in positivo rimango volentieri, altrimenti, come purtroppo annunciavo, faccio molta fatica. A proposito di possibili scissioni, Stefano Cappellini, quindi diciamo la minoranza del PD è spaventata che Renzi davvero voglia fare un accordo esclusivamente con Berlusconi e Verdini, diceva Gotorcia, o è un travaglio all'interno del PD più complesso, questo, una questione di posizionamenti, di potere, qual è secondo te la questione? È una vicenda molto complessa questa del Quirinale, perché da una parte insomma la questione dell'accordo con Berlusconi può essere letta in molti modi. È facile ricordare che anche Bersani cercò un accordo con Berlusconi, e io aggiungo giustamente, nel senso che l'elezione del Presidente della Repubblica fa sicuramente parte di quel catalogo di scelte politiche, di nomine, di pronunciamenti che vanno presi in un'ottica di accordo il più largo e trasversale possibile. Questa è la grammatica, il galateo della politica. E quindi anche Bersani cercò un accordo con Berlusconi, come ricorderanno tutti i nostri ascoltatori, l'accordo fu trovato sul nome di Franco Marini, poi questo accordo non resse alla prova del voto dei grandi elettori. Quindi diciamo l'idea che ci sia un accordo con con quello che resta comunque il principale leader dell'opposizione non è fuori dagli schemi, non è fuori dalla grammatica, anzi. Il punto ovviamente è che la situazione è molto complicata dallo spappolamento interno ai partiti, per cui oggi né il PD né il partito di Berlusconi né Forza Italia sono dei partiti in grado di blindare un accordo in modo ferreo al momento del voto, e soprattutto tutta questa vicenda si svolge a molto poco tempo di distanza dal grande trauma, questo per il PD, del 2013, da cui nasce tutto, perché la situazione che noi oggi viviamo, il governo che c'è adesso, i cambi di leadership, sono tutti figli di quel famoso voto che affossò la candidatura di Romano Prodi, causando le dimissioni di Bersani, causando la nascita di un governo Letta che poi di fatto fu solo una breve parentesi prima dell'arrivo di Renzi. Tutto nasce da lì, quello è un voto che ha lasciato delle ferite profonde, che ha ancora adesso anima a propositi di vendetta, a propositi di rivincita, e quindi la situazione è molto complicata. Da una parte ci sono due leader, Renzi e Berlusconi, determinati a stringere un accordo, ma dall'altra appunto dietro di loro ci sono formazioni non così compatte dall'una e dall'altra parte, e trovare un nome che sia capace di tenere tutte queste varie anime, cioè la maggioranza del PD, ma anche le minoranze, che non è, poi sono più d'una, Berlusconi, ma anche la fronda che lo contesta, guidata da Fitto, trovare un nome che vada bene a tutti non sarà complicato, perché i franchi tiratori sono sparsi un po' ovunque, e altri potrebbero essercene ancora negli altri partiti della maggioranza. Quindi è una situazione molto difficile da gestire per Renzi. Tra l'altro, allora, intanto il Movimento 5 Stelle, che viene tirato un po' di qua, un po' di là, ieri Grillo e Casaleggio hanno detto: Renzi faccia dei nomi, noi poi li sottoponiamo alla rete e vediamo se li vota. Toninelli, che era ieri qui effetto notte, Danilo Toninelli, Movimento 5 Stelle, ha detto: questo è il metodo 5 Stelle, il metodo trasparente, senza stare lì a inciuciarsi nel sottobosco, diciamoli questi nomi e poi facciamoli valutare dagli iscritti. Poi oggi invece sai dell'asse Nichi Vendola Pippo Civati, no? Che hanno detto, certo, non so se si creerà questa cosa rossa, ma hanno detto: aiutateci anche al Movimento 5 Stelle a trovare un nome NN, cioè fuori dal patto del Nazareno, non Nazareno. E poi Alfano ha fatto una dichiarazione che non so se sia sorprendente, dicendo: è arrogante voler per forza respingere un nome fatto dal PD. Quindi si creano particolari convergenze, è vero che Alfano è nel governo con Renzi. Ma... No, ma non c'è dubbio, ma sai, Alfano ha il problema che da una parte è nella maggioranza, dall'altro ha paura di rimanere stritolato da un accordo Renzi-Berlusconi, di essere in qualche modo scavalcato, e quindi anche i voti del nuovo centrodestra sono dei voti tutti da conquistare, non sono voti scontati. Per questo la partita è molto complicata. I 5 Stelle sono la vera grande variabile, nel senso che in questo quadro già di per sé molto complicato e frammentato, la situazione potrebbe diventare ancora di più difficile gestione se a sorpresa e rinnegando tutto quanto fatto finora i 5 Stelle decidessero di entrare realmente nella partita, cioè se uscissero da questa melina, no, dei voti in rete, dei sondaggi della base, che poi insomma servono semplicemente ogni volta a salire sull'Aventino e a togliersi dai giochi, e decidessero invece di entrare nella partita fino in fondo, mettendo realmente in ballo i non pochi voti che i 5 Stelle hanno a giocarsi, spendersi. E chiaramente la mossa di Civati e Vendola che tu ricordavi a quello mira, È chiaro che se i dissidenti della sinistra del PD, SEL, che ovviamente non vogliono un presidente eletto sull'asse Renzi-Berlusconi, se riuscissero a convincere i 5 Stelle a entrare in gioco e magari a spendere un nome che possa mettere un po' in imbarazzo Renzi, magari un grande nome, un padre nobile della sinistra, ne faccio un esempio su tutti, Romano Prodi, è chiaro che questo potrebbe essere la grande variabile, potrebbe complicare ulteriormente il cammino verso l'elezione. Che partita si sta per giocare? Ci aggiorniamo, Stefano Cappellini, allora. Grazie intanto. Grazie a voi. Ciao Stefano. Viabilità. Effetto notte. Le notizie in 60 minuti. E brevemente il vertice che c'è stato a Firenze tra Renzi e Merkel in piena sintonia e poi l'asse Vendola-Civati per il Colle, ne abbiamo appena parlato, la politica del bilancio di questa settimana così fibrillante, poi domenica la sfida di Tsipras in Grecia, il leader della sinistra dice non rispetteremo gli accordi dei predecessori. Europa 24 notte. E parliamo ancora di Grecia, di Europa, ma non del voto, ma di un fenomeno che ha costretto la Commissione Europea a muovere più richiami. Molti minori, che sono in fuga da Afghanistan, Pakistan e Siria, arrivano in Grecia sperando di proseguire il proprio viaggio verso l'Italia e altri paesi, ma alla fine vengono allontanati. Valeria De Rosa ne ha parlato con Valerio Neri, direttore generale di Save the Children. Ancora 48 ore la Grecia conoscerà il suo nuovo governo. Potrebbe decidere di incoronare Tsipras e la sua Syriza. Potrebbe scegliere la continuità con il primo ministro Samaras, più gradito del suo partito, i moderati di centrodestra di Nuova Democrazia. Ipotesi questa che si allontana di ora in ora. Si sono spese migliaia di parole sulla situazione finanziaria del paese, sugli sforzi fatti, sui conti che ancora non tornano, perché un debito al 170% del PIL è difficile da recuperare se la crescita non è davvero sostenuta. Si è parlato delle condizioni dei greci, dei bambini sotto la soglia di povertà, degli ospedali che non riescono a fornire nemmeno le vaccinazioni, della rete di ambulatori gestiti dai volontari che assistono ogni giorno centinaia di persone. Poco si parla però di un problema che la Grecia ha in comune con l'Italia, anche se in proporzioni minori, e che da quando è scoppiata la crisi viene affrontato con una durezza estrema, tanto da spingere Bruxelles a richiamare Atene più volte. Molti minori, in fuga dall'Afghanistan, Pakistan, ma anche dalla Siria, arrivano a Patrasso, sperando poi di poter proseguire il loro viaggio verso l'Italia e poi verso altri paesi europei. Minori soli, nessuno li accompagna, nessuno li protegge. In Grecia vengono allontanati con la forza. Valerio Neri, direttore generale di Save the Children. Questo è un problema gigantesco in Grecia, perché non solo molti che vengono dall'Asia, dall'Afghanistan, dall'Iraq, devono sostanzialmente passare per la Grecia se vogliono arrivare in Italia, ma la Grecia, da quando è diventata una situazione così severa da un punto di vista economico, come dire, sta dando anche delle prove di razzismo. Ho parlato personalmente con dei ragazzi a Patrasso, che poi sono arrivati in Italia, che mi raccontavano di squadrismi più o meno fascisti, nazisti, nel nostro ricordo di europei, che a Patrasso picchiavano con regolarità questi ragazzini se li riuscivano a beccare, proprio perché non dovevano neanche arrivare in Grecia, proprio perché occupavano in maniera, secondo loro, inaccettabile un territorio greco. Solita cosa che si dicono sempre in questi casi: portate via il lavoro a noi. Una guerra tra poveri, ma molto brutale. C'è una fascia di estrema destra in Grecia, di cui adesso si parla poco perché ovviamente si parla dell'altra parte, che però è molto di un razzismo abbastanza severo, insomma, abbastanza duro. Purtroppo a Patrasso chi è poi interessato ad andare a picchiare questi migranti sono soprattutto queste fasce. Queste fasce chiaramente crescono e fioriscono in una situazione economica di grande disagio. Europa 24 notte, in collaborazione con Euronet Plus. Potete arrivare tantissimi dei vostri messaggi, non riesco più a fare il calcolo tra Amato e Prodi, però c'è questo messaggio di Mauro da Cesena che dice: meglio di Amato sarebbe pure El Baghdadi, pensate un po'. Adesso invece però ci soffermiamo su Sanremo. Quest'anno un'edizione per quanto riguarda le canzoni, i testi fuori dal comune. Nei testi niente denuncia sociale, nessun testo impegnato, nessuna canzone neorealistica o che parli di crisi. Eccezionalmente al 90% parlano tutte d'amore, cosa mai successa a Sanremo, vero Marta Cagnola? Mai si è parlato d'amore nelle canzoni, ciao Marta. Beh, diciamo, ciao Roberta, diciamo che l'amore è sempre stato uno dei temi dominanti, però negli ultimi anni si parlava sempre, insomma, qualche accenno alla crisi, alla situazione dell'Italia, del mondo, era abbastanza inevitabile. Invece quest'anno tutte le canzoni, ma proprio tutte, guarda, forse tranne due, e sono 20, parlano d'amore. Le uniche due in cui, insomma, gli argomenti esulano un po' dall'amore sono quelle di Moreno, che parla un po' di sogni professionali, di riscatto sociale, e quella di Grazia Di Michele e Mauro Coruzzi, che è noto anche come Platinette, che parla di sessualità. Ti leggo solo qualche parola per farti capire. Sì, si può dire, Crisalide. Si può dire. Sì, sentiamo, Crisalide. Sì, solo qualche parola si può dire. Crisalide perenne, costretta in mezzo al guado, non c'è una donna o un uomo, solo un essere umano. Quindi capiamo qual è il senso della canzone di Grazia Di Michele, Marta, e di Platinette. Senti, invece tra gli ospiti, anche qui grandissime novità, Albano e Romina Power. Siamo tornati un po', diciamo, alla tradizione. Ma guarda, Albano e Romina Power erano attesi, annunciati e confermati solo da poco. Devo dire che inspiegabilmente c'è una grandissima curiosità attorno a Albano e Romina. Non so come mai riescono a catalizzare ancora la curiosità di tante persone, e decisamente eterogenee come target. Però vabbè, stiamo a vedere cosa combineranno nella prima sera. Arrivano subito Albano e Romina, poi per il resto invece gli stranieri li stanno un po' centellinando. Per ora sono sicuri Imagine Dragons e i San Motel, che sono due gruppi particolarmente sulla breccia. Poi i comici, ci sarà da tenere d'occhio il fatto che Angelo Pintus, Alessandro Siani, probabilmente più i innocui, però ci saranno Luca e Paolo, e sarà il primo vero banco di prova per la satira. Dopo tutto quello che è successo, diciamo che oggi Luca Bizzarri ha twittato al direttore di Rai 1 Giancarlo Leone che hanno già pronto lo sketch su Maometto. Molto bene. Scherzo, se è vero, però ecco, ci sarà da stare attenti. Cosa faranno? Molto attenti. Quando è che inizia, Marta? 10 febbraio, dal 10 al 14 si finisce con San Valentino e si inizia con Santa Scolastica, mi hanno detto. Grazie Marta Cagnola. A presto, si risente, ciao. A febbraio. Invece adesso dobbiamo assolutamente sapere, col poco tempo che rimane, che tempo farà. Paolo Corazzoni, Trebi Meteo. Buonasera Roberta, buonasera a tutti. Allora, intanto non ti nascondo che guarderò il festival per Albano e Romina, io comunque non avevo dubbi. Al di là di questo, allora, guarda, sarà un weekend con l'Italia divisa in due, ma all'incontrario. Al nord avremo condizioni meteo buone, con anche ampie zone di sereno e temperature diurne anche accettabili, sfiereremo i 10 gradi, forse li supereremo anche. Al contrario, al centro-sud molto più movimento, molta più instabilità, in particolare sul versante adriatico e nelle regioni meridionali, dove ci attendiamo rovesci, pioggia, addirittura anche dei temporali. Quindi da sopportare un po' per il sud questa situazione, con anche venti forti e temperature in diminuzione. L'inverno al sud si fa un po' sentire. Grazie Paolo Corazzon, buon tempo a te. Noi ci sentiamo tra poco. Grazie.